Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Credo che potremo andare più decisamente a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate, incisivamente, per quanto il Presidente conosce così bene l'italiano che sa cogliere anche queste sfumature. Per quanto riguarda le riforme strutturali, che già sono state a grandi linee indicate nel programma e sulle quali abbiamo iniziato a lavorare. Eccola qua, cari ascoltatori, la prima gaffe di Mario Monti. L'occasione non poteva che essere europea, in fondo, visto i tempi, gli impegni del nostro Premier. Affondare, insomma, non è certo l'obiettivo di nessuno, e anche una risata magari serve a stemperare una tensione che resta forte, che continua a investire l'Italia, ma non solamente, l'Europa tutta, in questa lunga crisi del debito. E da qui siamo partiti, e io riparto da un saluto a tutti voi, cari ascoltatori di Radio 24. Benvenuti dunque al nostro appuntamento settimanale con Punto a Capo. Qui facciamo il punto della settimana, di quest'ultima settimana del mese di novembre. E noi ripartiamo dall'Europa, che ha accolto il governo Monti anche con questa sua prima gaffe, ma parliamo anche di Finmeccanica, un'azienda importante, centrale, una grande azienda di Stato che vive mesi complessi. Ne approfondiremo appunto i dettagli tra poco, ma parliamo anche di un triste anniversario come quello della morte di Yara Gambirasio, la giovanissima ginnasta uccisa un anno fa ancora da una mano ignota. Questo per l'Italia. Poi abbiamo una pagina internazionale. Vi segnalo, così per anticipare, solamente due grandi temi: l'Egitto al voto lunedì, la Russia, tempo di elezioni per dei giganti regionali o assoluti, che segnano dei momenti critici sullo scenario internazionale, perché il mondo continua a girare anche al di là dell'Italia e dell'Europa. Punto e a capo. Giovedì, l'incontro Monti, Merkel, Sarkozy a Strasburgo. Dunque Germania e Francia ribadiscono il sostegno inevitabile all'Italia, ma si dividono sui contenuti. Allora sentiamo subito il nostro inviato a Strasburgo per l'aggiornamento di questo passaggio centrale della settimana. L'Italia di Mario Monti entra nella cabina di regia europea proprio nel giorno in cui a Strasburgo Angela Merkel e Nicolas Sarkozy sembrano in qualche modo deporre le armi sulla BCE. Monti incassa di fatto e senza colpo ferire maggiore libertà d'azione per il nuovo presidente della BCE, Mario Draghi. In sostanza la Francia rinuncia a insistere sulla BCE come prestatore di ultima istanza e la Germania non intenderebbe più creare tanti problemi agli interventi dell'Eurotower a favore dei paesi dell'Eurozona in crisi. Monti presenta a Merkel e Sarkozy le riforme strutturali che l'Italia si accinge a varare nella prima settimana di dicembre. Misure impressionanti, secondo la stessa Merkel, che apprezza molto il linguaggio del nuovo premier italiano, la sua determinazione nel rispettare il pareggio di bilancio nel 2013 e anche la volontà di rispettare vincoli di bilancio più severi, ma a patto che in tutta la zona euro si sterilizzino le spese per la crescita dal conteggio dei deficit. L'Italia entra quindi nel direttorio franco-tedesco e quasi d'incanto i duellanti Merkel e Sarkozy, che hanno ormai l'incendio alle porte di casa, si rendono conto che devono cedere qualcosa alle rispettive opinioni pubbliche se vogliono salvare l'euro. Paradossalmente oggi è proprio l'Italia il paese che sembra più disponibile ad accettare misure anche dure, purché finalizzate alla crescita, alla ripresa dell'occupazione, ma purché sia il frutto di un accordo tra forze politiche e parti sociali. E questo era Gerardo Pelosi, appunto inviato a Strasburgo in questa giornata di giovedì, da cui siamo usciti con la paradossale situazione che appunto i nostri alleati, amici europei sapessero sulle iniziative del governo Monti, ciò che in realtà il Parlamento non sa, l'opinione pubblica non sa. Ieri poi Monti, in una giornata di fitti incontri, parla ancora e dice degli obiettivi, gli obiettivi di finanza pubblica, a partire dal pareggio di bilancio, ma anche sull'esigenza di rilanciare la crescita, che sarà definito in un programma che egli stesso definisce di riforme strutturali, equo ma incisivo, da perseguire con il consenso delle parti sociali. Staremo dunque a vedere. Intanto si parla per tutta la settimana di Eurobond al centro della discussione. La Germania dice no, mentre la Francia, per voce del presidente Sarkozy, spiega che è persino pericoloso parlare di Eurobond senza parlare insieme di governance e di sanzioni. E dice presidente francese Sarkozy, è un pacchetto complessivo che dovremo presentare per forza insieme. Ma sulla posizione tedesca in materia di Eurobond sentiamo l'economista Roberto Perotti, intervenuto a Focus Economia. Su cosa è realistico attendersi, su cosa sarebbe ottimale fare in futuro, io ho l'impressione che ormai non sia più neanche questione di fondo salva stati o Eurobond. Gli Eurobond sono politicamente infattibili perché per avere effetti bisognerebbe emetterne, ormai c'è di mezzo anche la Francia, bisogna salvare Italia, Spagna e Francia, almeno 2.000 miliardi, e la Germania non potrà mai farne, nessun cancelliere tedesco può andare dal suo paese e dire dobbiamo prenderci, addossarci il rischio di un'emissione di 2.000 miliardi. Ricordiamo che la garanzia per gli Eurobond è in comune, cioè se potrebbe finire tutte sulle spalle della Germania, non è pro quota, la Germania non ha una garanzia specifica per la sua quota, diciamo, nel PIL europeo, può essere chiamata a garantire tutte le emissioni di Eurobond. Quindi l'Eurobond, come ha anche detto ieri la Merkel, nella proposta della Commissione, ha detto che era straordinariamente inappropriata, ha usato delle parole fortissime. L'Eurobond secondo me non succederanno mai, se succederanno sarà una cosa di facciata. E questo era Roberto Perotti, economista della Bocconi, intervenuto a Focus Economia. Ecco, una settimana iniziata di fatto martedì con la visita a Strasburgo, poi a Bruxelles, del primo ministro italiano Mario Monti, conclusa ieri con la visita dell'Europa a Roma. Ieri è stata infatti la volta del vicepresidente della Commissione europea, commissario agli affari economici Olli Rehn, che è stato a lungo a colloquio con il presidente Mario Monti. Punto e a capo. Restiamo in politica, ma per parlare di un'altra storia, di un altro aspetto, anche se, come è ovvio, parlando di spese, debiti, debito pubblico, insomma, la questione dei vitalizi, del costo della politica, non è affatto diversa. Ecco, in settimana il Consiglio di Presidenza del Senato, presieduto dal presidente Schifani, ha deliberato all'unanimità il superamento, a partire dalla prossima legislatura, per i nuovi eletti, dell'attuale sistema degli assegni vitalizi. Allora, l'ho reso noto il comunicato di Palazzo Madama, tutti a interrogarsi, si tratta di una vera svolta? Alessandro Milan ne ha parlato con Gianfranco Rotondi, fino a pochi giorni fa ministro senza portafogli per l'attuazione del programma di governo. Lo sentiamo. Io ho fatto nella vita tutti i mestieri, ho fatto il giornalista, il direttore di giornale, l'impiegato di università, persino il Pony Express, quindi non ho mai avuto paura di lavorare. In tutti i lavori che ho fatto mi si diceva sempre: ricorda che l'importante è portare a casa lo stipendio. La politica ha una sua demagogia e ipocrisia, per cui dello stipendio non si parla mai, nel senso che lei non sente mai un politico che dice l'importante è che porto a casa lo stipendio, perché poi gli saltano tutti addosso. Il problema della politica non è quello che i politici prendono, ma che fanno in cambio. Le devo dire la verità, quest'anno e mezzo che siamo in Parlamento, a mio avviso è uno stipendio rubato, perché noi il governo lo facciamo fare ai professori, noi gli battiamo le mani, sinceramente. Cioè quest'anno e mezzo di stipendio lei lo ruba? Per la prima volta, guardi, le devo confessare, lo ritengo proprio rubato. Rubato, e perché non si dimette così? No, perché lo prende un altro, lei dice? tanto ci sarà un altro. Le dico di più, il governo tecnico che annuncia la riduzione dei costi della politica, faccia con me un po' di conti. Il premier e il senatore a vita, beh, già questo, Ciampi non lo fu, Dini non lo fu, Amato non lo fu, c'è un brutto passo d'inizio. Poi ministri e sottosegretari tecnici, il ministro che non è parlamentare come il sottosegretario credo abbia una indennità di 7-8 mila euro al mese, che lordi fanno 150 mila euro all'anno, 120, 130. Insomma, quindi si spreca. Moltiplichi per una squadra di 50 e moltiplichi per un anno e mezzo, avrà qualche milione di euro che si aggiunge. Questa la posizione di Rotondi, che dice i costi aumentano altro che ridursi, e diciamo noi a maggior ragione, dunque è tempo che anche l'opinione pubblica in qualche modo insista, pretenda una radicale revisione di un sistema di obiettivi privilegi che riguarda 945 parlamentari, 945, e se il ministro raggiunge gli 8.000 lordi al mese, come diceva Rotondi, un parlamentare arriva sui 14.000 in un meccanismo che peraltro ha una parte esplicita, chiara, riconoscibile e un insieme, una vera e propria nuvola di privilegi che danno a questo punto non solo fastidio ma risultano davvero intollerabili, e questo indipendentemente dal momento di crisi. Insomma, lo stipendio medio dei parlamentari italiani, pensate, quasi il triplo di quello che dovrebbe essere, secondo almeno uno studio della Università Bocconi di Milano, che di fatto incrocia il PIL, il prodotto interno lordo, lo divide per le teste di ciascuno di noi e poi lo divide a sua volta per il numero dei parlamentari. Il risultato è che, per essere chiari, si guadagna più in Italia di quanto non si faccia in Germania, dove il PIL è notoriamente più alto. Promemoria, riepilogo: Italia 144 mila euro lo stipendio lordo medio, in Austria 106, quindi Italia in cima alla lista delle nazioni europee, l'Olanda 86 mila, un paese che ha dei costi della vita più alti, la Germania, che abbiamo appena citato, 84 mila. 108. Ecco, questo è un tema sul quale torneremo a parlare, e ci aspettiamo che la politica faccia dei passi precisi, concreti. Punto e a capo. Ai confini della politica, una grande azienda controllata dal Tesoro sotto la lente delle indagini. Occhi puntati sui vertici di Finmeccanica, il presidente Guarguaglini resta infatti nell'occhio del ciclone, stretto tra inchieste giudiziarie di cui è difficile immaginare gli sviluppi e conti societari in rosso. Le dimissioni del numero uno di Finmeccanica sembrerebbero dietro l'angolo, questo dopo la richiesta di Palazzo Chigi di una soluzione responsabile e l'incontro nella sede del governo tra lo stesso Guarguaglini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà. Si tratta solo di capire se l'eventuale uscita di scena del presidente della holding sarà un fatto isolato o porterà con sé l'intero vertice, a partire dall'amministratore delegato Orsi, un azzeramento insomma del CDA di Finmeccanica, come già accaduto per Enav. Un'ipotesi questa su cui insiste gran parte del mondo politico, anche se con toni diversi. Nei prossimi giorni il CDA prenderà le misure adeguate, annuncia il leghista Galli, consigliere di Finmeccanica. No a marchi di infamia, siamo garantisti, spiega dal PDL Leone. Via i vertici dell'azienda, attacca dal PD Zanda, che aggiunge occorre fare chiarezza per l'onorabilità di un'industria strategica. Duro di Pietro, che rivela anche noi siamo stati contattati per avere qualche tozzo di pane, ma abbiamo detto no perché rifiutiamo di partecipare alle lottizzazioni e condanniamo questo sistema corrotto. Della necessità di fare chiarezza parla anche la stampa estera. Il rischio, scrive il Financial Times, è che gli investitori fuggano. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lascio solo se me lo chiede il Premier. Così parla il numero uno di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini, che lo ha ribadito in questa settimana anche in un'intervista andata in onda giovedì sera su Servizio Pubblico di Michele Santoro. L'inchiesta sulle presunte mazzette distribuite ai politici in cambio di appalti dalla holding di Stato prosegue, e Finmeccanica ha convocato il consiglio di amministrazione d'emergenza per il 1 dicembre, giorno in cui molto probabilmente ci sarà dunque una svolta. Punto e a capo. Ancora un saluto, ben ritrovati da Gigi Donelli questa mattina, appunto è a capo, Fabio Cantadori in regia. Come vi ho anticipato, siamo alla nostra pagina internazionale e parliamo, direi per la prima volta almeno in questo programma, del nostro nuovo ministro degli esteri, Giulio Terzi, che ha parlato di Siria durante una missione in Turchia. Ha detto probabile che dopo il no della Siria agli osservatori vengano varate sanzioni contro Damasco, ma ha escluso la discussione su eventuali interventi militari. Dalla Siria all'Egitto. Il grande imam di Al-Azhar, la principale istituzione musulmana del paese, sta con i manifestanti di piazza Tahrir che chiedono un trasferimento di potere dai militari a un governo civile. Lo ha detto il suo rappresentante presente ieri nella grande piazza al centro del Cairo, la piazza che, come sappiamo, è il teatro delle manifestazioni di protesta contro l'esecutivo. Il grande imam, ha detto il suo portavoce, vi sostiene e prega per la vostra vittoria. Intanto sentiamo il punto di Alberto Negri a metà settimana su questa delicata crisi. In piazza Tahrir, tra spari e lacrimogeni, i manifestanti oggi hanno alzato uno striscione che chiede di non urlare slogan religiosi o legati a partiti politici. La rivoluzione non vuole padroni. Accade quasi sempre nei grandi rivolgimenti che il popolo e le masse si ribellino non soltanto al potere costituito, in questo caso i militari, ma anche a coloro che vorrebbero guidare la protesta. I generali hanno negoziato con i fratelli musulmani una roadmap elettorale, ma se la piazza non si calma, se continueranno gli scontri con i morti, sia le forze armate che il movimento islamico potrebbero accusare un duro colpo e perdere gli ultimi barlumi di credibilità. L'Egitto è nel caos e appare sempre più difficile che il 28 possano svolgersi elezioni regolari per l'Assemblea Costituente. Quasi tutti i partiti da giorni hanno sospeso la campagna elettorale. I rivoluzionari vogliono una data certa anche per le presidenziali ed esigono che i militari lascino al più presto il potere ai civili. La verità è che in questo momento in Egitto non c'è nessuno, né al potere né all'opposizione, che sia in grado di guidare il paese, e anche questa è una caratteristica di tutti i momenti rivoluzionari. Il 28 dunque, che è lunedì prossimo, il voto per adesso è confermato, naturalmente ogni ora le cose possono cambiare, intanto resta questa data per il primo turno delle legislative appunto in Egitto. Dall'Egitto alla Russia, dove questa settimana si è aperta con la sorpresa di un Vladimir Putin fischiato da una parte del pubblico del palazzetto dello sport di Olimpijski a Mosca. Putin, che è presidente, che è stato presidente tra il 2000 e il 2008, oggi è primo ministro, è a sua volta candidato a succedere al suo delfino Medvedev alle presidenziali del 2012. Intanto il 4 dicembre si vota per la Duma, le presidenziali sono in primavera, la Duma dunque il Parlamento, e il controllo monolitico sul paese della sua formazione Russia Unita sembra vacillare. Inaspettatamente la campagna elettorale russa si è ravvivata. Sembrava avviata all'apatia e allo sconforto di blogger, oppositori e in generale russi arrabbiati, ma rassegnati a veder vincere ancora una volta alle parlamentari del 4 dicembre Russia Unita, il partito di Putin che si riproporrà poi a primavera per il Cremlino. Lo chiamano il partito dei ladri, dei corrotti e dei burocrati. La gente è stanca degli squilibri sociali ed economici, è stanca di non avere alternative. Così, dietro la rassegnazione, la tensione sta crescendo. Ed è come se i fischi che domenica hanno accolto Putin allo Stadio Olimpico, prima manifestazione di dissenso verso uno zar finora indiscusso, abbiano infranto un incantesimo. E non è un caso che ieri alla Duma i deputati dell'opposizione non si siano alzati in piedi al passaggio di Putin. Un amico ha detto: «I russi hanno pazienza. All'inizio adorano il loro zar come avvenne con Yeltsin, ma il periodo di tolleranza è di 10 anni. Quelli di Putin sono scaduti». E ora il rischio è che per recuperare popolarità faccia leva sullo spettro del nazionalismo, esaltando la supremazia russa e attaccando gli immigrati. Oppure riaccendendo le tensioni con l'esterno, proprio come ha fatto ieri Medvedev, attaccando lo scudo spaziale americano. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cosa rischia dunque Putin? A quanto pare, nella peggiore delle ipotesi, di perdere il controllo monolitico appunto sul Parlamento, che gli è assicurato dai 450 deputati, dunque dalla maggioranza dei 2/3. Naturalmente staremo a vedere. dalla Russia all'India per una breve, che è comunque opportuno ricordare. È stato infatti finalmente designato il successore di Ratan Tata, il grande mogul dell'industria indiana, l'uomo delle automobili, degli autobus, insomma quella T che viaggia attraverso l'intero subcontinente indiano, ma che è anche molto di più. Il grande imprenditore ha infatti deciso che per un anno sarà affiancato da Cyrus Mistry, 43enne tycoon dell'industria edilizia e figlio del maggiore azionista individuale di Tata Group dopo la famiglia stessa. E adesso, dopo questa sorta di giro del mondo, torniamo in Europa. Giovedì, sentenza della Corte dell'Unione. I giudici nazionali non possono imporre alle società che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. Sentiamo il servizio. Chi voleva fare diventare gli internet service provider degli sceriffi della rete è rimasto deluso. Per la Corte di Giustizia Europea nessun giudice può obbligare chi ci fornisce il collegamento ad internet ad applicare filtri per prevenire il download di contenuti anche se illegali. Innocenzo Genna è membro del Consiglio dell'Associazione Europea degli Internet Service Provider. Gli internet service provider non sono né detentori di diritti d'autore né pirati, cioè sono semplicemente mezzo, sono quelli che forniscono le piattaforme o i livelli di comunicazione per la trasmissione dei dati. Sbirciare cosa fa il consumatore sulla rete costituisce dunque una violazione di alcune norme come quelle sulla privacy e sulla libertà di espressione. La Corte dice che il diritto di proprietà intellettuale è un diritto importante, ma non è inviolabile, deve essere contemperato con una serie di altri interessi. Scambiare file illegali su internet rimane naturalmente un reato, ma sarà più difficile per i detentori dei diritti intercettare il traffico illecito in rete. La sentenza avrà un impatto su come l'Unione Europea regolamenterà il settore nei prossimi mesi e non solo. C'è tantissima giurisprudenza, ma questa sentenza è la più importante di tutto perché ha una portata costituzionale. È una sentenza che non è appellabile ed ha prevalenza su tutte le legislazioni e le sentenze di tutti i paesi membri della UE. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Un anno fa, è già passato un anno, la scomparsa di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sotto nel Bergamasco, ritrovata poi senza vita tre mesi più tardi. Ancora manca il nome dell'assassino o degli assassini. Il paese si prepara questo anniversario con ovviamente una grande tristezza dentro. Nemmeno l'esame del DNA, da quanto filtra dalla procura di Bergamo, ha portato alla svolta. Insomma, fino a che non ci sarà una risposta, una spiegazione, la vita nel paese non potrà tornare normale. Questo dice Giovanni Valsecchi, l'uomo che aveva coordinato i volontari locali che cercarono per settimane Yara. Lo sentiamo intervistato da Raffaella Calandra. Tutto il paese purtroppo ha visto che viene alle lunghe, allora il morale è suo. Si vorrebbe che adesso che c'è il primo anniversario della morte di Yara ci fosse una risposta certa su chi l'ha uccisa. Tutti aspettano una risposta certa di chi ha fatto quel fattaccio lì, ma hanno perso la speranza, hanno sbagliato a fare le ricerche, a fare le indagini, la gente ha perso un po' di fiducia verso la polizia. Ma invece tutti i vari esami del DNA che sono stati fatti hanno creato dei sospetti reciproci all'interno della comunità di Brembate, oppure no? No. Almeno sentendo voci di paese, hanno in testa tutta la popolazione qua del paese che non sia uno di noi qua, sia uno strano. DNA addirittura, tutto il paese vorrebbe andare a rifarlo per meno togliersi il peso dallo stomaco e dire Brembate non c'entra, capito? Io, dicendo la verità, non escluderei nessuno. Cioè lei personalmente non si sente di dire posso escludere che sia uno del paese? Non mi sento di mettere la mano sul fuoco che non sia uno di Brembate. Che cosa vorrebbe dire per la vostra comunità se si scoprisse che ad aver ucciso Yara fosse una persona di Brembate? Sarebbe un'altra fucilata. Diverse notti lo sognavo che lei era nel fango, subito i primi giorni. Perché confidavate di riuscire a ritrovarla? Signor Valsecchi? Sì, io ero convinto di ritrovarla ancora in vita. Ad un anno da questo triste anniversario il paese vorrebbe una risposta per poter in qualche modo dare anche giustizia ai genitori e alla stessa Yara. anche per tranquillizzare tutte le famiglie che hanno dei bambini a quell'età lì, tutti con le antenne in alto, la vita è cambiata. Fino a che non si viene a capo la vita, non penso che si normalizzi. Dopo il delitto di Chiara, anche la vita di tutte le altre famiglie di Brembate è cambiata. Dal 28 di novembre l'anno scorso la vita è cambiata molto, tutto il paese sempre in allerta, cioè ha paura di mandare i bambini per conto loro. Punto e a capo. Oggi invece è la giornata nazionale della colletta alimentare. Credo che sappiate di che si tratta, soprattutto se avete già fatto le spese questa mattina. Insomma, un appuntamento che arriva dall'Europa, dalla Francia anni fa, ma che ha preso piede in Italia. Deborah Rosciani ne ha parlato con Marco Lucchini, direttore generale della Fondazione Banco Alimentare, perché vale la pena ricordarsi, perché incrociamo proprio in questa giornata questi molti, moltissimi volontari. 3 milioni di persone hanno bisogno seriamente di un contributo alimentare per poter vivere oggi in Italia. Con la giornata nazionale della colletta alimentare, ma anche con quello che recuperiamo tutti i giorni, che è eccedenza e non diventa spreco, aiutiamo più di 8.400 strutture caritative. A loro volta accolgono 1.400.000 persone povere. Quali sono i numeri di questa 15ª edizione della giornata nazionale della colletta alimentare? Il primo numero che colpisce sono i 120.000 volontari che hanno aderito e che sono presenti oggi in 8.000 supermercati. Chiediamo in particolare olio, pelati, legumi, scatola, carne, tonno e alimenti per bambini. Quali sono i risultati delle edizioni precedenti, se ce li può ricordare, e cosa vi aspettate quest'anno? L'anno scorso, grazie alla generosità di 5 milioni di persone, abbiamo raccolto 9.400 tonnellate di alimenti. Tutti gli anni, sono 15 edizioni oramai, siamo cresciuti anche nei momenti di maggior crisi. Quest'anno è uno di questi. Abbiamo visto gente che nei primi anni comprava due spese, magari l'anno scorso divideva la propria spesa, ma sempre donava qualcosa. Punto e a capo. Verità difficili da raccontare, soprattutto quando si ha a che fare con i bambini. A Essere e Benessere, venerdì, Nicoletta Carbone ne ha parlato con Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Davvero la necessità, come al solito per il genitore che si trova di fronte ad argomenti spinosi, di utilizzare un metro difficilissimo da mettere in funzione, perché da un lato c'è l'idea oggigiorno, e questo forse andrebbe davvero approfondito, che la natura umana, quindi che il bambino, non sia attrezzato per ascoltare delle verità, che poi sono le verità che riguardano la vita, cioè si nasce, si muore, spesso, ecco, dire la verità a un bambino, credo che si voglia con questo rassicurare, come ha detto lei all'inizio, nasce un fratellino, è morto qualcuno, dall'animale all'amico, al nonno, a qualche familiare, oppure la separazione dei genitori, una malattia, una difficoltà di famiglia, che può essere una difficoltà economica, una difficoltà nei rapporti, per esempio, interessantissimo, una cosa che io vedo spesso in ambulatorio, le difficoltà interfamiliari, cioè fra nonni, suocera, nuora, cognati, no? Queste big family, sì, che in qualche modo poi i bambini si trovano dentro ai conflitti e non capiscono niente. Allora, dire, non dire, credo che sia veramente la questione che i genitori si trovano di fronte, perché appunto hanno un'idea oggi di bambini che io sono solita definirli esenti rischi, bambini da proteggere in tutte le modalità possibili e immaginabili. Ma questo poi in che cosa si ridefinisce? In una mancanza continua dei percorsi normali dell'autonomia di un bambino. Oggi i bambini stazionano di più di un tempo nel lettone, oggi i bambini hanno per più lungo tempo il pannolone, oggi i bambini sono sempre comunque protetti dai genitori di fronte alle scuole, di fronte alle difficoltà. Ecco, allora che siamo di fronte poi a dei bambini più fragili, dei bambini che, diciamo così, avevamo davanti anche semplicemente, noi dico questo come psicologi, come tecnici, una decina di anni fa. Non sei mai stato così, Antonello Venditti, in conclusione di questo appuntamento con Punto a Capo, come sempre diamo spazio a quello che è cinema, TV, musica, e come sempre Marta Cagnola ci fa il punto della settimana. Buongiorno Marta. Buongiorno Gigi, l'abbiamo incontrato in anteprima Antonello Venditti perché uscirà martedì con il nuovo disco di Inediti Unica. Questa che ascoltiamo è la canzone che ha già fatto parlare di sé, perché si intitola La ragazza del lunedì, sottotitolo Silvio, e quindi insomma eravamo un po' curiosi di sapere chi fosse questo Silvio. Beh, insomma, non avevamo moltissimi dubbi e abbiamo parlato proprio con Antonello Venditti, che ci ha un po' anticipato i contenuti di questo album che si intitola Unica. È bello perché potete vedere che dietro adesso faccio la televisiva. Guarda, io sono seduto, dico agli ascoltatori, sono seduto, dietro a me c'è una gigantografia di questo, della copertina del nuovo album che si chiama Unica, gigantesco, dietro c'è uno sguardo verso il cielo. Parlare di questo disco veramente mi fa molto piacere e sono lieto di farlo in una grande radio. Come fai a prevedere il futuro tu? Ma no, quello, ma chi lo sa, cioè, tu effettivamente, guarda, c'ho delle cose, ma no, c'ho l'istinto, una capacità di analisi istintiva, è semplicissimo prevedere il futuro. Quindi nel caso di Berlusconi, ma come nel caso di Questo Mondo di Ladri e tante altre cose. Basta essere attenti alle cose che uno vive, e sentirle dentro e poi avere anche la voglia di comunicarle in qualche modo. Quasi sempre con canzoni giocose, le cose più importanti uno le dice sempre ridendo, oppure ballando, oppure facendo finta di essere distratto. E così Silvio, insomma, la canzone che ormai chiamano tutti Silvio, ed è una canzone ballabile, quindi è una festa, è una festa. Hai detto che è una canzone d'amore? È una canzone d'amore perché la ragazza del lunedì è l'Italia, per cui questo Silvio, che è Silvio Pellico, naturalmente come tutti sanno, non si è occupato mai della propria ragazza che è l'Italia, solo il lunedì che ci sono i tribunali, per cui per forza si dovrà occupare di noi, si è dovuto occupare di noi, ed è la fine di una storia d'amore. Tu sei sempre stato anche un economista e un sociologo, e anche in questo disco lo sei. Ma distrattamente, come si dice. Beh, insomma, economista, non, ti riferisci in Questo Mondo di Ladri, ma quello perché in questo mondo di debiti viviamo ancora di scandali e poi sposiamo le vergini, cerchiamo le vergini. E l'arte, cioè la poesia può arrivare anche a queste stupidaggini, insomma, però è il mistero quello che vince. E proprio come ha fatto, molte volte pure io, per me le canzoni sono sempre un fatto strano, perché pensa se gli economisti facessero veramente le canzoni, che cavolo di canzoni potrebbero scrivere. Aspettami lungo la ferrovia, mi troverai a parlare di fiori con la polizia. E passiamo da Antonello Venditti a Paolo Benvegnù, è uno dei cantautori più impegnati e più premiati in questo periodo, è appena stato al premio Tenco tra i 5 migliori album dell'anno e questo fine settimana viene premiato al Medimex, dove quest'anno si tiene anche il MEI e il PIMI, il premio per la musica indipendente, come miglior solista. Ma Paolo Benvegnù, che è un altro ascoltatore di Radio 24 che apprezza molto la nostra radio, sentiremo anche lui parlare di questo, insomma. Ma Paolo Benvegnù, tutti questi premi fanno piacere? Se è vero che la conoscenza non è da, come ribadisco spesso, cioè, almeno lo dico me, la conoscenza non è che sia da mostrare, la conoscenza è da tenere, ammesso da un concesso che sia una giusta conoscenza, se la propria conoscenza va benissimo. Vabbè, mi devi salutare, sì. E perciò non mi interessano queste cose, mi interessa più il fatto di avere invece, di continuare a vedere orizzonti verso cui andare, di spostare sempre più i limiti miei e nel personale, sì, nel quotidiano, i limiti delle persone che conosco insieme a me. Perciò questo è ciò che mi interessa. Poi è anche respirare, ad esempio, e cercare di pensarsi non più come un naufrago, ma come un naufrago che trova una rotta. Ecco, questo è quello che mi piace. È usare il sestante per vedere le stelle e cercare di capire la mia posizione, ma dimenticarla. Questo è quello che vorrei. Non sono sicuro di riuscirci, però probabilmente nel tempo, se avrò ancora un po' di tempo, penso di riuscire a farcela. Nel tempo. Però un artista ha sempre a che fare col pubblico e queste occasioni ti mettono alla prova anche nell'avere a che fare col pubblico. Sì, beh, in realtà è vero, hai ragione, mi mettono alla prova. Io sono, faccio una vita molto sobria e molto piccola, perché penso che la vita possa essere piccola, ma basta avere un pensiero ampio e degli orizzonti ampi. Per me è un banco di prova, nel senso che non sono così abituato a vedere tante persone. Il fatto stesso di vedere te, che immaginavo sentendoti, no? È una grande restituzione, perciò io la vivo così, un po' come un ragazzino, è come un bambino di 6 anni, 7 anni, che non, ma non per nostalgia o per periodo aureo da ritrovare, con questo tipo di stupore. Quanti complimenti, Marta Cagnola, complimenti. No, ma i complimenti sono a Radio 24, però insomma ogni tanto dobbiamo... Fa piacere, il tempo ormai a nostra disposizione è finito, non mi resta che ringraziare naturalmente Marta Cagnola, tutti i colleghi di Radio 24, di ringraziare naturalmente il nostro Fabio Cantadori in regia. Da parte mia un saluto, l'appuntamento con Punto a Capo come sempre, sabato alle 9:15 circa per la nostra agenda radiofonica della settimana. Buon fine settimana a tutti!